sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni a Salpinaz. Oggi ascolteremo, diciamo, sono tre, intanto sono tutte e tre donne e non è una scelta, è una casualità. Sempre più spesso accade che le cose più interessanti siano proposte da nuovi talenti o anche poi non tanto nuovi, come in questa occasione, come oggi, dove ci sono più generazioni a confronto. Ma diciamo che l'approccio alla scrittura del jazz è sempre da parte perlomeno delle artiste femminili, hanno una carenza di preparazione anche accademica classica. E come probabilmente si può dire oggi, intanto cominciando dalla prima, è una sassofonista svedese che ha ormai una discreta esperienza alle spalle tra le fila della Fire Orchestra di Gustafsson e abbiamo avuto anche occasione di ascoltarla in diversi casi, sempre ha dimostrato ottime capacità sia di carattere, diciamo, oltre che di sviluppo tematico. E poi da un po' di tempo ha anche formato una sua piccola orchestra, Attack, che è uscito con alcuni mesi fa, è uscito con un lavoro intitolato Ensangsgren. E comunque è un nuovo lavoro del gruppo orchestrale di 11 elementi, anzi 12 con lei, che ha registrato due brani che sono composti dalla stessa Anna Ogberg e che hanno però uno sviluppo molto articolato, quindi sono due brani piuttosto lunghi, come una sorta di suite, e dove i momenti interessanti sono diversi. Non sto a citare i musicisti perché non sono quelli di prima fila, diciamo, nell'ambito svedese, ma forse è lei la protagonista anche da un punto di vista del solismo, però appunto è un ensemble piuttosto ben coeso e il prodotto è decisamente di alto livello. È stato anche notato in molte riviste internazionali l'anno scorso, specialmente in Europa è stato votato da più giornalisti, da più critici, come uno dei migliori, delle migliori pubblicazioni dell'anno. Ascoltiamo questo ultimo lavoro della Anna Ogberg, Attack. Thank you. Questa era Anna Ogberg con la sua orchestra Attack nell'ultimo lavoro uscito e che sicuramente ha anche una serie di ambizioni che vengono in parte perlomeno rispettate. A mio avviso quello che abbiamo ascoltato è di un ottimo livello espressivo che quindi si integra poi in altri momenti di caos che vengono ricomposti appunto in queste parti conclusive sono per lo più. E passando ad un altro personaggio anche completamente diverso, diciamo anche proprio come concezione della sperimentazione musicale, si tratta di una pianista, Chris Davis, canadese ormai trapiantata a New York, che ha pubblicato all'inizio di quest'anno un lavoro abbastanza particolare, perché è per pianoforte e quartetto d'archi. Quindi una sorta di lavoro cameristico, indubbiamente si avvicina a un linguaggio più legato alla musica classica, oltre però che comunque all'espressione jazzistica, che è propria peraltro a Chris Davis, per l'etichetta Pyroclastic, la sua etichetta discografica, che sempre più negli ultimi tempi si avvicina a queste forme di confine con la musica classica, vuoi quella liturgica oppure di coro oppure di altre formazioni timbriche che diciamo che suggeriscono comunque un rapporto con la musica classica. E questo appunto, questo disco, Chris Davis and the Lutoslavsky Quartet, il quartetto Lutoslavsky, che è un quartetto che di alto livello per quanto riguarda il repertorio classico, diciamo. E in questo caso appunto si unisce nella scrittura di Chris Davis, si unisce a queste aspirazioni, a queste composizioni della stessa Chris Davis. Il disco intitolato The Solastalgia Suite è appunto una forma di suite in più movimenti, ne ascolteremo un paio, quello iniziale e poi il quarto. Thank you. Questo era Chris Davis con l'Utoslavski Quartet, questo lavoro, diciamo, di una sorta di lavoro cameristico in più movimenti, Solastalgia, De Solastalgia Suite, e che indubbiamente è riuscita a coniugare nella sua scrittura, nella sua partitura, è riuscita a coniugare un linguaggio legato a quello che può essere anche una ricerca pianistica nel jazz, più anche di ricerca, con un'organizzazione, una musicalità decisamente classica, con il Lutoslavski Quartet. È un lavoro interessante, ben riuscito, e ha avuto anche un ottimo riscontro anche nelle riviste internazionali di jazz. E passando all'ultimo lavoro, forse anche quello più importante, da anni si sta aspettando il nuovo lavoro di Maria Schneider con la sua orchestra. Maria Schneider, anche lei canadese, poi trapiantata negli Stati Uniti, che era dal 2019 che non pubblicava più niente. In questo periodo, in queste ultime settimane, è stato pubblicato dalla sua etichetta discografica, anche lei ha una propria etichetta discografica, l'Artist Share, e un lavoro, una EP, un lavoro breve. In pratica sono due composizioni che vengono proposte, e una delle quali vede due versioni. La prima addirittura, appunto, risale al 19, quindi già parecchio tempo fa, e poi è stata revisitata e eseguita nel 25, insomma alla fine dell'anno scorso. Poi in più si aggiunge anche una seconda composizione, quindi in definitiva di materiale nuovo non ce n'è tanto, ma direi che la Maria Schneider si è più, come dire, ha prestato più attenzione alla ricerca nella composizione orchestrale, nel lavoro di arrangiamento, di costruzione proprio. E indubbiamente sono degli umori diversi da quelli che l'hanno sempre contraddistinto. Tra l'altro, indubbiamente Maria Schneider, da più di 30 anni, è considerata la miglior orchestra di jazz, diciamo, quindi da tempo. È indiscussa questa leadership da parte della Maria Schneider. Anche ecco, i musicisti in parte sono modificati, non c'è più McCaslin, ma direi la parte protagonista, sono tutte e due queste composizioni, vedono un solista emergere, quello principale, l'American Crow, che dà anche il nome alla pubblicazione, e vede come protagonista un trombettista, Mike Rodriguez, molto bravo e anche ben inserito in questa scrittura. Poi il secondo brano, A World Lost, vede come solista un chitarrista, Jeff Miles, e qui si sentono più, diciamo, gli umori legati a un certo tipo di jazz rock, insomma di quell'ambiente, diciamo, e che è anche molto gradito dal pubblico americano, non solo, ma dal pubblico americano sicuramente. La formazione è piuttosto vasta, ci sono alcuni personaggi che ricorrono come sempre, o perlomeno da molto tempo, come Gary Versace al pianoforte, che è sicuramente un aiutante di grande valore e di grande importanza, poi alla batteria, anche in questo caso, ormai da molto tempo il batterista principale è sempre Jonathan Blake, che poi è anche batterista in vari gruppi e anche in propri gruppi, come ha fatto anche una pubblicazione l'anno scorso. E poi diversi altri, ecco, alle alleanze, come spesso ormai o da molto tempo, Dave Pietro al clarinetto, al sax alto e anche al flauto, Steve Wilson al contralto e anche al soprano, e Scott Robinson, che ormai da tempo è sicuramente una pietra importante sulla quale può appoggiare la musica di Maria Schneider, è un ottimo sax baritono, clarinetto basso o contrabbasso, cioè un po' l'istrumentista che svolge delle funzioni di solismo o di sostegno all'orchestra, che sono considerevoli. Ecco, però in questa scrittura più recente, diciamo, di Maria Schneider, emerge il fatto che ogni musicista riesce ad avere un proprio ruolo nel tessuto orchestrale, quindi è una polifonia piuttosto ricca questa sperimentazione della scrittura orchestrale. Di altri, ho già Jeff Miles alla chitarra, l'ho già citato prima, come peraltro anche, ecco, al sax tenore anche John Ellis e Rich Perry, e poi diversi altri. E comunque ascoltiamo la prima versione di American Crow, quella cioè che risale già a 6 anni fa, e che a mio avviso è quella migliore, e, diciamo, più asciutta, dove la musica diventa più limpida, e il disegno orchestrale della Maria Schneider, a mio avviso, è più limpido, più leggibile, più individuabile. E poi ascoltiamo anche il secondo brano composto, A World Lost, con il solista Jeff Miles alla chitarra. Ascoltiamo questi due brani di Maria Schneider Orchestra. Thank you. Questa era l'orchestra di Maria Schneider con quest'ultimo lavoro, questa composizione American Crow, questo corvo americano, è un brano bellissimo, e anche l'ultimo che abbiamo ascoltato, The World Lost, è decisamente notevole, sia nella struttura, nell'evocazione anche lirica che suggerisce. Insomma, è meglio, come dire, un disco corto, ma a questo livello, piuttosto che, come dire, perdere tempo in cose magari inutili. Questo è un condensato delle qualità artistiche di Maria Schneider, e perlomeno la dichiarazione era quella che era una sorta di anticipazione rispetto a un lavoro più completo, più complessivo, che comprendeva anche altre composizioni. E vedremo, aspettiamo quello che era prevista l'uscita l'anno scorso, perché Maria Schneider poi comunque, anche quando è sempre stata piuttosto parca nelle proprie produzioni, si può dire un disco ogni 5 anni, questa è stata la media che ormai dagli anni 90 in poi ha avuto nelle sue pubblicazioni, e in questo caso i 5 anni erano già scaduti da un po', e quindi si aspettava un lavoro più completo, ma insomma, però l'anticipazione è decisamente di grande livello. Era l'ultimo ascolto questo per oggi, quindi la Maria Schneider Orchestra con American Crow, e era l'ultimo ascolto per oggi, dicevo, e quindi l'intera registrazione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko alla sezione Musica Playlist. Salve a tutti e alla prossima.